Buonasera Presidente. Quando buonasera lei... Marino, come sta? Col baffetto oggi, guarda che fa un attaccaruccio con sta cravatta. Che c'è da dire, la cravatta di Bartoletti? Poi la regalo io la cravatta. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ricordo che da casistica del regolamento del calcio l'ostruzione c'è solamente quando non c'è contatto fisico. In caso di contatto fisico c'è il fallo. Eccolo qua, vedete, Ronaldo sposta la palla, questo è l'intervento. È il classico intervento dettato dall'eccessiva foga, involontario, però certo. Siccome c'è il danno procurato, su questo non ci sono dubbi, c'è contatto, è un contatto fisico ed è calcio di rigore. Moviola d'antan, datata 26 aprile 1998, non finiremo mai di ringraziare l'ex numero uno della Federcalcio, Franco Carraro, per averci riportato la memoria in questa lunga intervista su Repubblica alla madre di tutti gli scandali, cioè quello Juventus-Inter, famoso rigore di Giuliano su Ronaldo, con Carraro che dice che, tra le altre cose, la cupola del calcio c'era, le sentenze dicono di sì e noi dobbiamo stare alle sentenze. Ovviamente anche quando dichiarano prescritto un reato bisognerebbe avere tutta l'intelligenza di metterci una pietra sopra. Domanda: e al di là della sentenza, qual è la sua opinione? Risposta di Carraro, che a differenza di quanto avvenne nel 98, la Juventus in quei due campionati aveva la squadra più forte e ha vinto sul campo anche di parecchi punti, e non a causa di interferenze, che però ci furono molte cose che non andavano bene. E nel 98, quello secondo me fu l'unico campionato veramente falsato a favore della Juventus. Si ricorda del rigore su Ronaldo, e chi se ne dimentica? Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione, e come spesso accade con grande piacere è venuto qui Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Io questa mattina, Carlo, ero a casa, ho letto l'intervista e mi sono detto: ma dove vado alle 14? Vado nella trasmissione dove hanno avuto il coraggio di rifare la moviola di Catanzaro, Juventus e Cagliari, Fiorentina, campionato 81-82. Vuoi che il buon Carlo Genta non mi dica se era rigore o no? Con la moviola di Pistocchi. Che dici? Chiamiamo Ronaldo, chiamiamo Giuliano, chiamiamo l'arbitro Ceccarini. No, ma la cosa bella è che Giuliano c'era quella sera in quello studio televisivo, con l'ordine di Moggi e della dirigenza juventina ovviamente di non proferire parole. Fu una moviola diciamo surreale, così come io ritengo anche surreale il fatto che l'ex presidente della Federcalcio tre volte, l'ex presidente del CONI, l'ex ministro dello sport, il personaggio che all'epoca di quei fatti che oggi ricorda era il numero uno della Lega Calcio, oggi ci racconti che il campionato 97-98 era falsato. Sì, il campionato 97-98 era falsato. Vi dicevo, sì, qualche telefonata l'ho fatta anch'io per Lazio-Brescia. Sì, ma quello dopo, lì siamo alle carte di Calciopoli. Sì, e per Inter-Juventus, ma solo per tutelare la federazione, perché non volevo che venissero fuori altri problemi. Il che mi fa pensare che se il campionato 98 era davvero falsato, come oggi ci racconta, o all'epoca non aveva nulla da tutelare, oppure si è girato dall'altra parte, no? Se vogliamo seguire il filo logico, però noi siamo qui. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Benissimo, siamo a rigore di Giuliano. Sì. su Ronaldo, vedi tu. Beh, io ho fatto due ore. Hai fatto? Ecco, certo, avevo fatto una volta la moviola del gol di Turone, però le immagini non chiariscono. Le immagini non chiariscono, no, la famosa blindella. C'è anche il giallo, che potrebbero essere state taroccate all'epoca. All'epoca le immagini, e ormai siamo ai progetti. Qui invece c'è chi ha detto che era sfondamento quello di Ronaldo Giuliano. Pallacanestro poteva essere sfondamento. Invece io mi ricordo che un paio di anni fa Luciano Moggi ha scritto una sua autobiografia, tra l'altro bellissimo libro, io l'ho letto, interessante, divertente, pieno di aneddoti, e al capitolo numero uno dice: rivisto dopo devo dire che quel rigore ci poteva stare. Sì, però nel basket Giuliano era fermo e quindi poteva essere sfondamento, ma è calcio. Ma vogliamo chiedere a casa cosa ne pensano? No. 800 24 00 24, ma per tutt'altri argomenti, come ad esempio la nazionale, da cui oggi arriva una notizia che è una martellata per i tifosi della Juventus. Vi faccio sentire Bonucci e poi ve la dico. Allegri. Marco sta dimostrando con il Paris Saint-Germain di essere un giocatore importantissimo a livello europeo. Alla sua età ha anche un vantaggio, che è quello di non soffrire le pressioni che gli vengono date, e credo che questa sia una dote importantissima per un giovane. Noi da parte nostra, conoscendo quello che vuole il mister sul campo, cerchiamo di aiutarlo in alcuni movimenti che magari con un gioco diverso che fa nel Paris Saint-Germain ancora non gli vengono naturali. Questo era Bonucci su Verratti, ma il tema del giorno riguarda chi starà a casa dalla trasferta in Bulgaria. Sono Florenzi e Pasquale, che hanno dei malanni, e Marchisio, che invece ha avuto un infortunio grave, perché man mano che passano i minuti diventa certezza: lesione al crociato e stagione finita per Claudio Marchisio, centrocampista della Juventus. Tutti convocati. È un vincente, parlano i risultati ottenuti, cura molto i particolari, sia sotto tutti i punti di vista, a livello tattico, a livello fisico, e credo sia molto importante a questo livello. Questo era Darmian su Antonio Conte. Giovanni Capuano qui in studio con me, Pierluigi Pardo al telefono, Ciccio Graziani, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno ragazzi. E la notizia del giorno è questa: per la nazionale la trasferta bulgara va bene, ma soprattutto per la Juventus, perché Marchisio si è rotto un ginocchio, legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lesione subtotale, stop 6-8 mesi, dicono già le notizie. Questo è un grande problema per il ragazzo in modo particolare, e siamo tutti molto dispiaciuti perché gli vogliamo tutti bene. È un problema per la Juventus e per questo finale di stagione, soprattutto nella Champions, anche perché sembra che dovrà fare meno, molto probabilmente, anche di Pogba. Certo. E quindi recupera da Pirlo, ma insomma piove sul bagnato in questo momento sulla Juventus. E dispiace però soprattutto per Marchisio, perché sono con gli incidenti e quegli infortuni che tutto sommato poi alla fine preoccupano sempre un po'. Sì, Pierluigi, miglior centrocampista della Juventus in questa stagione dal punto di vista del rendimento, eh? Marchisio è un punto di riferimento assoluto di questa squadra, e magari si prende qualche copertina in meno perché c'è stata l'esplosione di Pogba, perché negli anni scorsi c'è stata l'esplosione di Vidal, perché Pirlo è Pirlo, però insomma quanto cambia questo infortunio? Cambia perché soprattutto perché arriva dopo quello di Pogba. Innanzitutto cambia molto, perché tra Marchisio è una importanza, deve fare la differenza. E sappiamo che questo finale di stagione, con le tre competizioni, ovviamente c'è bisogno di grande freschezza. È vero che la Juve in campionato potrà permettersi di fare un discreto turnover, però è anche vero che insomma le tre competizioni ci sono, le partite le devi giocare, e poi nel senso del discorso vincere aiuta a vincere, quindi avere la rosa al completo certamente ti avrebbe dato una mano. E poi il secondo aspetto è che arriva dopo l'infortunio di Pogba, e quindi insomma ci sarà emergenza almeno all'andata contro il Monaco, per cui no, è una bruttissima notizia, fammi dire, soprattutto una bruttissima notizia per il ragazzo, d'accordo con Ciccio, mi dispiace molto, adesso ti manderò un messaggio, insomma, che Claudio è un giocatore corretto, un giocatore bravissimo, tutte le cose banali che si dicono in questi casi però sono assolutamente vere, bravissimo ragazzo, quando c'è un infortunio il giocatore dispiace sempre molto, insomma, quindi aspettiamo un verdetto definitivo, però la diagnosi è già questa, molto precisa, subito a pochi minuti dall'infortunio, quindi è segno che non ci sono grandi dubbi. Tra l'altro un infortunio al legamento, poi magari può essere ridimensionato di qualche settimana, ma qui evidentemente stiamo parlando di qualcosa di grave. Mi pare che il problema grosso della Juve è che questo infortunio non tanto arriva dopo quello di Pogba, non solo, ma ricordiamoci che Marchisio in questa stagione è stato il backup perfetto di Pirlo, certo, nel ruolo di regista. Pirlo sta per rientrare, ma è evidente che quest'anno non ha avuto continuità né dal punto di vista fisico, della condizione. Ricordo una statistica, credo che Marchisio abbia giocato 17 partite da titolare nel ruolo di Pirlo. È evidente che è pesantissimo perderlo in un momento in cui la Juventus si era vista aprire delle prospettive anche europee che fino a un paio di mesi fa probabilmente riteneva chiuse. Sì, ma è anche vero che adesso a Pirlo si chiederanno una decina di partite al massimo livello, cosa che probabilmente è in grado di dare. Ciccio, non abbiamo tanti attaccati adesso, al di là dell'infortunio di Marchisio, che è molto grave anche per la nazionale e anche in prospettiva Bulgaria, però abbiamo una nazionale, parlavamo ieri, senza grandi attaccanti. Il capocannoniere Gabbiadini con 14 gol, anche quello che sta facendo meglio, non è un attaccante puro. Poi Zaza 10 gol, Immobile 8 gol, Immobile una decina scavati tra le varie competizioni, Pellè 12 ma non segna dal 20 di dicembre. È una nazionale senza gol nelle gambe. Sì, ci abbiamo pochi in questo momento e soprattutto abbiamo dei giocatori che non stanno neanche granché bene, perché Immobile sta soffrendo la situazione di Dortmund, gioca poco. Pellè negli ultimi tempi non sempre così in forma come lo era 3 mesi fa. Gabbiadini è quello che sta meglio, ma anche lui gioca con poca continuità al Napoli, soprattutto dall'inizio. Zaza 2 mesi fa, mi ricordo le giocate con l'Inter, e fece delle cose strepitose, adesso sembra un po' l'ombra di se stesso. Ecco, siamo in un momento un po' di difficoltà, soprattutto nella forma dei calciatori, perché la qualità poi è questa, non è che possiamo pretendere molto di più, ma per fortuna non dobbiamo ancora conquistare nulla, nel senso che dentro gli europei ci siamo, bisogna arrivare molto probabilmente per tanti motivi primi, ma insomma ci siamo lì, non siamo preoccupati. Siamo preoccupati del fatto che molto probabilmente dobbiamo ritrovare brillantezza, qualità e soprattutto dei miglioramenti, perché così ho l'impressione che non si vada molto lontano. Ecco. Senti, ma se stessero tutti bene, fossero tutti sani, in buone condizioni psicofisiche, eccetera, la tua coppia di attaccanti italiani ideale chi è? Qual è? Beh, in questo momento è... Considerali tutti, eh? Io proverei a recuperare quella testa matta di Balotelli. Quindi, ho sempre un chiodo fisso che... E ti dico Balotelli, Giuseppe Rossi. Beh, anche Giuseppe Rossi è un giocatore che mi è sempre piaciuto, peccato per tutti gli infortuni. Certo, recuperare anche Giuseppe Rossi sarebbe bellissimo per lui e per il nostro calcio. Però insomma, io in questo momento proverei a fare un discorso un pochino più serio e più concreto per vedere Balotelli, perché continuo a considerarlo un grande talento, però deve metterci qualcosa di suo dentro questo giocatore, perché se no diventa la vittima di se stesso, purtroppo. Un tentativo lo farei per Balotelli, perché è un talento e i talenti vanno così ricercati un po', no, sotto certi aspetti. Ma tu credi, Ciccio, ragionevolmente, che le porte siano davvero chiuse per sempre? Cioè, Conte l'ha chiamato, l'ha tenuto lì 3-4 giorni, poi dopo gli allenamenti si è fatto male, è tornato a Liverpool, adesso non l'ha convocato a questo giro. Cioè, tu pensi sia finita qui o da settembre in poi tentativo lo farà? Io penso di no, io penso che Antonio sia sempre nell'ordine delle idee di richiamarlo il giocatore. Certo, il giocatore deve fare qualcosa di più di quello che non sta facendo, perché in questo momento non si può chiamare un giocatore che tra l'altro lo sta giocando e le poche volte che gioca non gioca neanche ai suoi livelli. Fare qualcosa di più non è così difficile, basterebbe fare qualcosa. Basterebbe poco per fare qualcosa di più. Esatto. Ma lui ha bisogno di tanto, perché ripeto, è un giocatore che deve ritrovarsi, deve ritrovare forma, deve ritrovare equilibrio, deve ritrovare serenità, altrimenti diventerà vittima di se stesso, purtroppo. Pier, sei d'accordo invece con Bonucci, mi pare che ha detto comunque abbiamo la difesa più forte del mondo? Ma sicuramente siamo una squadra che è più forte dietro e davanti, sicuramente siamo una squadra più intensa che talentuosa, in questo insomma Conte è una garanzia. La qualità difensiva, soprattutto del pacchetto Juve, da risposte, quindi sì, sicuramente sì. Insomma, io però ho appena visto un'immagine dei giocatori dell'Argentina che stanno vedendo la partita dell'NBA. C'era Agüero, Messi, Higuaín e Tevez, 4 posti, Higuaín nella fila dietro, gli altri 3 erano uno vicino all'altro. Francamente, un paragone abbastanza complesso. Ecco. Però dal punto di vista difensivo ce la giochiamo, ma noi siamo. Fa parte del nostro DNA, noi siamo da sempre duri da battere, anche nei momenti e nelle situazioni non di particolare spolvero tecnico, e questa sicuramente, insomma, tra le varie generazioni della nostra nazionale non è la fase migliore. Sì, sì. Aspettiamo l'esplosione di Verratti, a Ciccio. Sì, aspettiamo con curiosità, anche perché Verratti nel Paris Saint-Germain lo vediamo spesso, fa anche molto bene, si assume delle responsabilità. però qui deve fare qualcosa di più, perché deve ha ereditato una situazione che non è facile, che è quella di Pirlo, perché gioco forza diventerà il sostituto di Pirlo naturale di quel ruolo, è un peso enorme. Adesso aspettiamolo davvero alle grandi responsabilità, ai grandi tornei, così possiamo essere più precisi anche su Berratti, anche se devo dire che insomma è un ragazzetto che si presenta bene, ha entusiasmo, ha voglia di fare, e questo è già di per sé un premio per lui, no? Però l'importante è che senta con se stesso la voglia e il dovere di doversi sempre migliorare, perché ripeto, l'eredità di Pirlo è un'eredità molto pesante per lui. Certo, importante che lo facciano giocare, di recente non è successo molte volte. Grazie Ciccio. Esatto. Un abbraccio a tutti, ciao Pier. Ciao Ciccio Graziani. Sento male, c'è qualcosa che non torna nella mia cuffia, non è il telefono di Pardo. Alberto, provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno e buona giornata a tutti e complimenti. Io volevo intervenire in merito al rigore di Giuliano, che chiaramente argomento c'era di cronaca, sì. Chiaramente quel rigore c'era, io sono uno juventino, quel rigore c'era, è inutile nasconderlo, però sento sempre dire che l'Inter non ha vinto il campionato per quel rigore. Io questo mi dissocio, perché? Perché la Juventus quella partita la stava vincendo già 1-0, gol di Del Piero al 35esimo del primo tempo. Il rigore di Giuliano è stato effettuato nel secondo tempo, e poi sull'azione successiva c'è stato concesso il rigore a favore della Juve, che Del Piero lo ha sbagliato. Sì. E questa è sempre cronaca non recentissima. Vedo Giovanni Gavano che ride con molto, perché ride? Poi non solo la Juventus, no, perché io rido, perché giustamente mi hanno scritto anche alcuni tifosi della Juventus dicendo: però devi anche ricordare che è la stagione dei passaporti di Recoba, che l'Inter doveva andare in Serie B, e quindi ricordiamo anche quello, apriamo. Era anche quella degli orologi, quel tema, no? Gli orologi arrivò un po' dopo, sei sicuro? Comunque sì, possiamo riaprire quello che vogliamo, magari lo chiediamo a Carraro che all'epoca passava di lì per caso, no? E oggi 17 anni dopo non era l'anno degli orologi anche? No, non mi sente Pardo, vabbè, tanto abbiamo la borsa, lo recuperiamo alla svelta, si ricomincia. Convocati. Dunque, oltre a Giovanni Capuano qui in studio, mi ha raggiunto anche Marco Berinazzo dal Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao, buon pomeriggio. Dovrebbe esserci anche Pierluigi Pardo, tornato con noi al telefono. Pier? Eccoci. Vedi, eccoci. Che si sente, vedi che non si sente, vedi che si sente. Si sente. Chieda De Luca. Tutti insieme appassionatamente per parlare del rigore di... Io ho sentito venendo qui che vi stavate divertendo con questo vintage giornalismo. Vintage, sì. Molto vintage. Molto vintage, sì. Se ne potrebbe parlare anche a proposito del nuovo fair play finanziario italiano. Che è vintage. E vintage è già vintage nel senso che c'era, e ci dobbiamo chiedere perché nel 2007-2008 certi criteri furono tolti per permettere magari a tutta una serie di squadre di iscriversi al campionato. Perché? Per permettere a qualche squadra di scrivere a tante, diciamo a 12 su 20, diciamo che ce n'era in regola un terzo più o meno delle squadre allora di Serie A. Vedi, quindi che il vintage va di moda. Sì, ma in particolare una di Roma e una di Genova, diciamo così. Sì. Non diciamo quali. Cioè 50%. 50%, ma basta un piccolo sforzo di conoscenza o di immaginazione, oppure tirare la monetina. Alternativa. Francesco Milano, buongiorno. Buongiorno, dica. Grazie dell'intervento. Vorrei essere un po' vintage anch'io, quindi più che il rigore di Ronaldo di quel campionato sicuramente falsato, ricorderei all'ascoltatore precedente che la domenica prima ci fu un Empoli-Juventus dove Bianconi dell'Empoli di Spalletti pareggiò e l'arbitro, solo l'arbitro, non vide Peruzzi che buttava fuori la palla dalla porta, ma non volevo tornare su quel campionato. Secondo me lo scandalo degli scandali invece sì, fu il campionato che l'Inter perse all'ultima giornata a Roma con la Lazio. Quella partita non doveva essere decisiva, fu preceduta da almeno 10 episodi scandalosi, il più clamoroso dei quali fu a Verona col Chievo, dove Ronaldo, ancora lui, fu abbattuto a un metro da De Sanctis, che guarda caso poi condannato da calciopoli, dalla giustizia ordinaria e sportiva. E anche da quella penale, ora unico superstite. Sì, perché in realtà non ha rinunciato, c'è anche un altro, ce n'è un altro. Perché non ha rinunciato alla prescrizione nella sua arroganza. No, in realtà quindi va rispettato per questa scelta. Adesso, amico, si può dire tutto, ma d'accordo. Uno che rinuncia alla prescrizione va fino in fondo, secondo me, va rispettato, punto, per questo tipo di scelta. È tutto tranne che arrogante, però prego, No, dicevo, proprio lui negò il rigore che avrebbe chiuso il campionato, perché sarebbe stato il 3-1 per l'Inter a Verona col Chievo e non staremmo qui a parlare di Lazio. Sì, però secondo me il problema è che noi queste cose qui le diciamo, ne parliamo, ci arrabbiamo, ci accapigliamo da 17 anni, se vogliamo retrodatare al 1998. La cosa secondo me è assurda, Pier, io non so se tu sei d'accordo, è che l'allora presidente della Lega Calcio, successivamente presidente della Federcalcio, si sveglia questa mattina e dice che quel campionato era falsato. Cioè, sì, questa è incredibile. Non è l'amico questa che telefona a tutti i convocati per dire che c'erano 10 episodi, è Franco Carraro. Sì, sì, è Franco Carraro, fra l'altro 3 giorni dopo la sentenza della giustizia ordinaria su questa cosa qui. No, ma è... Io, non lo so, volete... Io, non, la cosa non mi appassiona, nel senso che veramente non ne siamo usciti, purtroppo non ne siamo usciti, nel senso che nonostante i 9 anni della giustizia ordinaria, nonostante i verdetti della giustizia sportiva, non siamo arrivati a una conclusione che sia univoca, ma non univoca nella testa dei tifosi, perché quello non lo sarà mai, che nei bar si possa discutere a distanza di anni anche sui processi va benissimo, mi sembra che ci siano tutta una serie di elementi che non quadrano, la prescrizione non quadra di per sé, perché vuol dire che non sei riuscito ad arrivare a una conclusione di nessun tipo e poi appunto questa dichiarazione sono ancora un'altra cosa, certamente sconcertante, perché Carraro non è esattamente uno che nella vita fa il fioraio o il fiorista o non lo so, o ha un agriturismo, è uno che ha fatto il presidente federale e che lo dice oggi, 3 giorni dopo che si è chiusa quella pagina. Da un lato ci può anche stare che lo dica oggi, perché proprio si è chiuso il processo, no, con la prescrizione. No, ma tra l'altro parla di cose che dentro il processo non ci sono, cioè riapre. No, appunto, riapre dei file. Riapre dei file che non esistono. E se posso, poi magari cambiamo argomento, deve anche stare attento, perché in quelle centinaia di pagine del processo di Napoli su Calciopoli, in realtà si fa riferimento anche al periodo prima. Ad esempio, i giudici scrivono che esisteva un sistema consolidato. Quindi, siccome tu eri lì, o ci racconti le cose per bene, oppure lascia stare, no? Sì, assolutamente. Marco Marinazzo. Io no, la chiuderei, nel senso che il Sole 24 Ore ha preso una posizione molto chiara attraverso un fondino che è uscito ieri. È brutto autocitarsi, insomma, ma io l'ho scritto, insomma, ma perché è un fondo del Sole, c'è anche stamattina sul mio blog, in cui non per avere un atteggiamento, come dire, democristiano fino in fondo e giustificare o colpevolizzare, ma il vero problema qui è che ci troviamo a non riuscire a staccarci definitivamente da quel mondo, da certi metodi di gestione di quel calcio. I personaggi più o meno sono ancora lì che pontificano e non si invece comincia un discorso serio di riforme strutturali che ci permettano di, come dire, progredire e cercare di colmare il gap che si è creato, guarda caso, negli ultimi 10-12 anni. Ricordo sempre che ci troviamo di fronte a un movimento calcistico che fattura 1,8 miliardi, che ha costi per 2,4 e ha debiti per 3 miliardi. La Bundesliga incasserà incassa 2,5 miliardi all'anno e la Premier League nel prossimo triennio incasserà 13 miliardi di euro dai diritti TV. E peraltro, è notizia proprio di ieri, 1 miliardo di questi soldi, alcuni miliardi, saranno devoluti alle società minori per rafforzare le proprie strutture, i propri stadi. L'equilibrio. Esattamente. Esatto. E noi siamo qui ancora a discutere di queste cose. Poi capisco che juventini di queste cose e interisti, a prescindere dalla riforma, Marco, perché sono i due partiti, Guelfi e Chiellini, e questi non moriranno mai. Quindi puoi fare tutte le riforme che vuoi, ma è una questione emotiva questa. Sì, però il punto, io accolgo pienamente il discorso di Belinazzo. Funzione Belinazzo. Qui, no, sì, perché quel punto decidere se vogliamo rimanere proiettati sul passato oppure pensare al futuro. È ineliminabile, però, Pier, dobbiamo rendersi conto. Io so benissimo perché mi basta accendere una miccia anche con Pugini, che comunque è un raffinato intellettuale, o dei suoi, diciamo, corrispettivi nerazzurri, basta tirar fuori l'argomento Calciopoli e se si può andare avanti per un'ora. È molto anche che la cosa, egoisticamente parlando, dal punto di vista degli ascolti o del dibattito, possa funzionare. Credo che in generale, in prospettiva, il calcio italiano debba chiudere questa pagina per sempre, lasciarla nei bar come corollario ai migliori e peggiori cappuccini in tutta Italia, e occuparsi di questioni invece più strutturali che riguardano il futuro, perché è sul futuro che si gioca la partita. Ma e ribadisco che credo, al di là di tutto, che l'Inter, il vantaggio vero e proprio di questa, della vicenda di Calciopoli, ce l'abbia avuto, il vantaggio giusto secondo la giustizia sportiva, ce l'ha avuto perché è riuscito a sfruttare benissimo, anche a livello europeo poi nel 2010, l'opportunità che si è creata inevitabilmente con Calciopoli, e sì, quindi sì, ha dimostrato di essere molto lucida nell'approfittare di quell'occasione. Anche questo è già quello il risarcimento, capito? Non è il carcere di nessuno, cioè l'Inter quell'occasione lì l'ha sfruttata, l'ha saputa cogliere. Agli juventini potrà rimanere un senso di delusione per essere, e agli interisti un senso di delusione perché volevano una punizione più pesante per la Juve, ma la Sarri ha già pienamente fatto il suo corso in quegli anni. Sì. Perché aggiungo solo una cosa, una pena retributiva non richiesta. Aggiungo solo una cosa, magari con tutto il rispetto per le persone, che continuando di questo passo avremo sempre più Giuliano pronti a falciare calciatori, ma di Ronaldo non ne vedremo più a giocare in Italia. Certo. Quindi c'è anche una questione, come dire, di interesse dei tifosi che si parli di altro, cioè quello finalmente di avere delle squadre che si possono permettere giocatori di prima fascia e non vederli scappare all'estero dove se li possono permettere. Comunque, allora, se vi consola, avremo altre tonnellate di trasmissione su Calciopoli. Ma davvero? Tutto questo mi sorprende molto. Facciamo i bravi e chiudiamo la seduta su questione. Però adesso abbiamo il traffico. Poi vorrei chiedere a Marco Bellinazzo sul futuro del Parma, queste nuove norme che ci sono, imprenditori canadesi, guardate, canadese pronta ad avventurarsi, nuovi premi per la Champions League, sempre più ricchi in arrivo, novità sulla vendita del Milan, e poi una domanda che mi gira in testa. Continuiamo a parlare di allenatore del Milan, ma secondo me la vera domanda è sulla Milan società, più che su chi siederà in panchina, chi giocherà nel Milan l'anno scorso. Tutti convocati. Dunque, Marco Bellinazzo, nuove norme in arrivo per evitare altri casi Parma, è cordata canadese che vorrebbe entrare nel calcio. Sì, io consiglierei un attimo al presidente federale di star calmo, insomma, su cordate ora americane, canadesi, insomma, cerchiamo di risolvere un problema alla volta, poi a giugno vedremo. No, la cosa importante di questi nuovi parametri, come ricordavamo all'inizio, erano stati in qualche modo tolti dal sistema nel 2007, è che finalmente si inizia un percorso serio, anche perché c'è un'introduzione graduale con delle sanzioni e si basano su alcuni principi molto chiari. Innanzitutto quello della liquidità, cioè all'inizio del campionato mi devi dimostrare che tu hai un attivo patrimoniale, cioè sui conti correnti o comunque disponibilità superiori alle passività correnti. Questo vuol dire perlomeno che inizi e finisci il campionato. Sì. Su questo siamo abbastanza d'accordo, poi sul tecnicismo dovrà essere ancora definito e approvato dal CONI la norma. Sono introdotti poi altri due criteri, diciamo, correttivi, in base ai quali devi rispettare un certo rapporto tra il costo del lavoro, e finalmente per costo del lavoro si intende non solo ingaggi ma ammortamenti, una battaglia mia da tanto tempo accolta finalmente dalla FIGC, perché anche gli ammortamenti sono un costo, anche se sembra una brutta parola, rispetto a quello che è il tuo fatturato, quindi devi dimostrare di essere una squadra più o meno in equilibrio. E c'è anche un rapporto tra l'indebitamento complessivo e quello che è il tuo fatturato, e qui viene introdotto anche un concetto, diciamo, di plusvalenza meno le minusvalenze, per questo dovrebbe garantire che non si gonfino i fatturati con le plusvalenze fittizie, come tante volte si è fatto. Questi criteri entreranno gradualmente in vigore, non dall'anno prossimo, fra due anni saranno applicati come una sanzione a livello di calciomercato, quindi se non rispetti questi parametri o metti soldi o non fai calciomercato. Fra due anni saranno invece un criterio di iscrizione fondamentale, per partecipare alla Serie A e gradualmente saranno estese anche alla Serie B e alla Lega Pro, che oggi hanno altri criteri di iscrizione paradossalmente anche più severi di quelli della Lega di Serie A. Mi sembra, insomma, ho letto qualche critica di chi dice: ecco, hanno fatto una roba ed entrerà in vigore fra 3 anni. La UEFA ci ha messo 9 anni a mandare a regime il fair play finanziario. La gradualità, secondo me, è un indice di serietà del progetto. Poi dovrà essere messo a punto chiaramente, ma finalmente mettiamo un masso importante per costruire un edificio nel quale edificio della Serie A potranno entrare soggetti onorabili. Sì. È il criterio della onorabilità. Onorabili. Cioè non essere stati condannati per mi sembra serie. un po' una bestemmia in chiesa, ma comunque. Vabbè, insomma. Pardo c'è? Non c'è. Non riusciamo a recuperarlo. Abbiamo un minimo di sostenibilità finanziaria perché una banca dovrà certificare. Certo. Non ci saranno più un caso Doca, un caso Manenti. E perlomeno dei paletti ci sono. Insomma. Champions sempre più ricchi invece. Beh, questa era una novità attesa perché Platini ha costruito e sta costruendo un impero intorno alla Champions League, quindi di quel discorso che spesso abbiamo fatto qui con voi sull'importanza di andare in Champions, capite che diventa ancora più centrale. E la novità, se vogliamo, è anche il fatto che anche la tanto bistrattata Europa League permetterà di distribuire più soldi, da 200 a 380 milioni, il che rende questa competizione un po' più appetibile anche dal punto di vista economico. C'è un grande divario. Ecco che è tornato Pardo. Con i vostri soldi delle TV fate ricche le squadre che faranno la Champions League. Sempre più ricche e la forbice si allarga. Io non ho nessun merito, non ci metto neanche un euro, però credo che sia... Io sono laico, insomma, in questo. Io penso che le televisioni ovviamente non siano la rovina del calcio, quindi c'è qualcuno... Secondo me veramente senza motivo, sono un grande finanziatore, ha bisogno di diritti, cioè è portatrice di diritti la TV, e quindi dovrebbe essere rispettata un po' di più, quando sentiamo dei silenzi stampa, addirittura dei silenzi stampa d'azienda, mi fa abbastanza ridere perché quelle stesse aziende, al di là del fatto che gli ascolti televisivi sono nettamente superiori alla diffusione di qualsiasi giornale, mi dispiace, io sono un grande lettore di giornali, ma insomma credo che la TV da questo punto di vista numericamente, basti guardare i dati, insomma, certo, chiaramente raggiungono un pubblico molto più vasto, ma soprattutto sono anche in qualche modo finanziatrici. Detto questo, ci sono dei contratti, le televisioni fanno il loro dovere, forse per le penali bisognerebbe essere un pochino più stringenti. Questo ovviamente non riguarda una TV piuttosto che un'altra, ma è un concetto più complessivo. In generale credo che ci siano ovviamente degli investimenti da fare. Gli investimenti non devono essere soltanto nei giocatori, cosa che è successa in Italia, negli ingaggi, certo, ma devono essere investimenti strutturali, che come ci insegna il professore, insomma, poi alla fine bisogna patrimonializzare, cioè bisogna far sì che le società riescano a crescere come valore complessivo delle strutture, degli impianti, dei soldi che investi nel settore giovanile, che è l'investimento chiaramente migliore. Però vedi che in questo modo comunque la forbice tra chi fa l'Europa, chi fa la Champions League in particolare e tutte le altre si allarga. Pierluigi, ti saluto e ci sentiamo domenica. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao. Io aggiungerei due piccolissime notazioni. Vai. Sulle riforme della Champions. La prima è che Mister Platini in pochi anni, diciamo una decina d'anni, ha portato il fatturato della UEFA da 1 a 2 miliardi. Sì. Primo elemento importante, tanto per gradire, e la cosa importante è che nella prossima tornata, nella distribuzione dei soldi, diciamo il peso attribuito ai risultati sul campo sarà un po' più alto rispetto a quello del market pool, semplicemente delle televisioni, quindi bisognerà essere più competitivi sul campo. Per dire, quando la Juve ha partecipato alla Champions vinta dal Bayern Monaco, in cui c'erano solo due squadre italiane, la Juve ha incassato 60 milioni più del Bayern che ha vinto. Quest'anno arriverà a cifre spaziali, già siamo a 52 milioni, due squadre. E anche per questo in Italia c'è questa forbice che si sta allargando in maniera impressionante, perché chi sta facendo la Champions in questi 2-3 anni sta guadagnando un vantaggio competitivo immenso. La Juventus rispetto può agli altri permettersi di considerare il ricavo Champions come un ricavo strutturale, cosa che non può fare nessun'altra squadra. La Roma, che pure è uscita, ha messo in cassa 50 milioni, certo. 49 milioni. Senti Marco, un'ultima curiosità, toglici aggiornamenti sulla vendita del Milan. Tu trovi sensato che si parli di un futuro del Milan dal punto di vista tecnico in questo momento? In questo momento è assolutamente secondario l'aspetto tecnico. Appunto. C'è in questo momento in atto una due diligence doppia tra il Milan e la cordata che sta comprando una quota importante del Milan. Il buon Mr. B, il thailandese. Con la N? Sì, Mr. Bean, thailandese, che tale si presenta agli occhi delle sentenze o delle decisioni della Consob del suo paese, sì. Ma che da noi ha un altro credito e che pare piaccia molto al nostro Mr. B, sì. Sta guidando, diciamo, questa cordata, questo fondo che ha imprenditori sia di Singapore che di Bangkok. Io continuo a spingere su questa strada. Mm-hmm. Si sta facendo la due diligence, dopo Pasqua avremo qualche novità, anche perché potrebbe accontentare almeno all'inizio Berlusconi sull'acquisto di una minoranza del club anziché dell'intero pacchetto, ovviamente con la prospettiva poi di salire, vedremo in quanto tempo, alla maggioranza assoluta. Però questo dossier è assolutamente caldo, insomma, le conferme ci sono. Io ho i dubbi quando si parla sempre di soldi che arrivano da Singapore, così come li avevo su quella famosa cordata russo-cipriota, ma dubbi che abbiamo, ce li teniamo e poi andremo a verificare le carte. Grazie Marco Verinazzi. Grazie a voi. Alla prossima. Giovanni, stai qui con me. Convocati. Mi dicevi Giovanni Capuano, ci sono i tifosi della Juve molto arrabbiati per questo infortunio a Marchisio, ma si è fatto male in nazionale. Meno male che non è un infortunio muscolare. No, perché la tesi che sta passando è abbiamo pagato l'ennesimo tributo alla nazionale. Questa è colpa degli allenamenti tirati al massimo di Antonio Conte. Adesso vedete, si farà male anche crociato. Barzagli si è fatto male al crociato, quindi amici juventini state calmi. Però effettivamente tutte le volte che succede qualcosa del genere il tema torna d'attualità, torna caldissimo. C'è anche chi scrive: è assurdo che una società professionistica debba sacrificare un patrimonio importante come un giocatore di questo livello per una nazionale. E allora non torniamo sempre ai temi, insomma, che sono carissimi a tanti di noi. Secondo me le nazionali hanno il giusto spazio, alle volte ne chiedono anche troppo per ragioni commerciali. Non è il caso evidentemente di questo appuntamento che ha certo. Una partita di qualificazione per l'europeo, però se io penso ad esempio alle tante tournée che fa la nazionale brasiliana in accordo con il suo sponsor per raccogliere soldi in tutto il mondo, mi domando che senso hanno. Però questo non c'entra nulla con Marchisio. Sì, non c'entra nulla con Marchisio, c'entra molto con le superstar che giocano nella nazionale brasiliana. E questo, cioè, se vogliamo le nazionali, così sono, così è se vi pare. Se non le vogliamo più, parliamone. Francesco Pescara, buongiorno. Buongiorno Francesco, buongiorno domani, un altro giorno. Pier Torino, buongiorno. Pronto? Pronto, dica. Sono Pier da Pancaglieri, non da Pescara, provincia di Torino. Sì, comunque, a parte quello. No, era Francesco che era da Pescara, non rispondevo, ho chiamato lei, ho convocato lei. Ho capito, va bene, grazie, vi ringrazio. Vorrei solo dire una cosa, perché tutti ci ricordiamo delle regole e non regole, ma nessuno poi, soprattutto anche per gli interisti. L'unica cosa certa che c'era di quel famoso campionato del rigore di Ronaldo, che c'era, non c'era, non siamo ancora d'accordo adesso. L'unica cosa certa era che tutte le partite che ha giocato Recoba, l'Inter doveva perdere al tavolino 3-0. Quindi forse Carraro si riferiva al campionato falsato perché l'Inter doveva andare in B. No, Carraro parlava del rigore di Giuliano Ronaldo. La mia era una battuta, ecco. Un'altra cosa, voglio fare complimenti a Torini, che sto leggendo il suo libro su Schumacher, che è veramente bello. Ah. E poi vorrei chiedere a Capuano, sì. La Juve cosa potrebbe fare? Ok, sto processo qua è andato così, eccetera, però lo sappiamo tutti che non è stato, se rispettiamo le regole, accettiamo la condanna, però lo sappiamo tutti com'è andato veramente. Cosa può fare la Juve per far uscire la verità, non per il risarcimento, non va bene, quello sarà impossibile, la Juve farà riaprire il processo sportivo attraverso l'unico strumento che ha, che è il famoso articolo 39 delle regole che già esistono, che sono le regole federali. Avrà tempo un mese dopo che saranno state depositate le motivazioni della Cassazione, lo farà. e a quanto mi risulta la federazione è pronta a discutere anche degli scudetti 2005-2006, anche se entriamo in un dedalo di competenze. Mentre sulla questione dei risarcimenti la federazione pretende che la Juve faccia un passo indietro, tra l'altro ritenendo anche che la causa sia stata mal incardinata, poi vedremo, ma sì. Di sicuro in queste settimane, in questi mesi sta iniziando un dialogo che porterà, credo, a chiudere definitivamente la pagina di Calciopoli. Sì, solo sulla carta, perché poi sulla carta, perché qualcuno resterà comunque scontento, però si metterà un punto da questo lato. Secondo me va anche apprezzato il tentativo oggi della federazione, ma anche forse della stessa Juventus. Insomma, vediamo. Intanto martedì la nazionale va a Torino a giocare allo Juventus Stadium e ci va 8 giorni dopo la sentenza di Cassazione su Calciopoli. Anche questo è un tema. Va bene, un altro tema invece, vi faccio sentire Valentino Rossi e Marquez. Un po' di difficoltà, infatti sono abbastanza lento, nel senso che rovino tantissimo la gomma dietro, già dopo 4-5 giri la moto si muove tanto, e poi dopo, siccome il nostro programma era di fare tutto il turno con una gomma, e poi dopo sono stato non abbastanza veloce anche nella seconda parte delle prove, perché la gomma era già rovinata, e quindi vuol dire che non siamo a posto di setting e soffro troppo, soprattutto in entrata di curva mi scivola e non sono abbastanza veloce, quindi è stato un turno di prove abbastanza difficile, ecco. Ho iniziato bene il anno, questo è importante, sì che è un free practice, ma comunque sono contento perché il feeling era lo stesso che fa una settimana qua al test, e questo è lo più importante. Dopo anche abbiamo provato qualcuna cosa piccola che mi è piaciuto, e vediamo come va domani, ma lo importante è provare di mantenere questo livello fino a domenica e provare di stare bene in gara, che è lo più importante. Questi erano Rossi e Marquez, la sua barba, la sua voce, il suo microfono, le sue corse nei box sono parte della storia e della leggenda recente del moto mondiale. Quest'anno non lo vedremo. Paolo Beltramo, lo sentiamo. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Come stai? Bah, abbastanza bene, insomma avrei preferito essere in Qatar, però vabbè. Non ho dubbi. Un po' triste. Non ho alcun dubbio su questo, ma contiamo di rivederti al più presto, a correre nei box. Speriamo, si dice a Milano, speriamo. Intanto, sì. Valentino Rossi va, perché il domandone è questo, va a prendere Marquez o no? Io innanzitutto non la legherei poi proprio soltanto alla gara del Qatar. Hanno fatto soltanto un turno di prove, quando di solito se ne fanno due, qui infatti sono 2 o 3 giorni per poter stare tutti dentro dal tramonto alle 10, che sono gli orari in cui la pista è utilizzabile, altrimenti diventa troppo umida e troppo scivolosa, e quindi siccome si corre di notte non si può provare di giorno, e allora sono divisi su 3 giorni, quindi ieri la MotoGP ha fatto un turno solo. Ci sono stati i test 8 giorni prima, per cui dovrebbero essere tutti già abbastanza a punto, però evidentemente Vale ha provato qualcosa di nuovo che non lo ha soddisfatto. Marquez è una sicurezza. Rossi, secondo me sì, anche lui, perché se ha 36 anni compiuti uno si continua a mettersi in gioco così a quel livello lì, secondo me è perché sente di potersi riuscire. Se poi ce la fate è difficile, comunque, ecco, Marquez è una bella bega, come direbbe lui. Una bella bega. però qualcosina in più ce l'aspettavamo. Io ho letto oggi sui giornali, al di là dei tempi, sia Valentino che Lorenzo mi parevano un po' delusi. Ma io Lorenzo l'ho sentito un'intervista di Lorenzo ieri, mi sembrava un po' più positivo di Vale, però sì, il problema è che forse la Yamaha non è ancora un po' lontana dalla Honda, ecco, pensavano tutti che fosse come l'ultima parte del mondiale dell'anno scorso, ma lì forse ha contribuito un po' anche di deconcentrazione, di soddisfazione di Marquez, che insomma ha vinto le prime 10 gare consecutive, poi a un certo punto quando era già campione del mondo un po' il fiato l'ha tirato, quando era quasi sicuramente campione del mondo, la scivolata di Misano, queste cose, insomma, ma adesso invece è ancora bello carico, bello motivato, insomma, è dura stare davanti a Max. E poi c'è il rischio che ci siamo un po' illusi alla fine dell'anno scorso, che si fosse ridotto il gap. Io non so, però comunque se Valentino Rossi vincesse ancora qualche gara e finisse ancora secondo o terzo nel mondiale, anche se non primo, tanto di cappello, voglio dire, l'importante è giocarsela, divertirsi, divertire, insomma, che ci sia dello spettacolo. Ecco, quello che mi auguro è che non ci siano 10 gare vinte da Marquez consecutivamente. No, sai che palle. Per Marquez, sai che palle. Per noi, poveri noi, punto. Che due maroni, ecco. Due maroni. Senti Paolone, ma a me incuriosisce invece moltissimo, se ne è parlato tanto, però già l'anno scorso io ogni volta che parlavo di moto, lo faccio spesso, continuo a dire la Ducati, a me l'anno scorso è piaciuta molto. Sì. Quest'anno mi piace anche di più. Ecco, ti piacerà di più secondo me quest'anno, perché è un progetto completamente nuovo, c'è un pizzico di, diciamo, di aiuto già in questa moto da parte dell'Audi, che sì, l'anno scorso ha acquistato la Ducati, e però non c'era ancora quando è stata fatta la moto l'anno scorso, quindi forse qualcosina di esperienza. L'Audi ha una tecnologia esagerata, credo che sia la più grande fabbrica di auto al mondo, se non la seconda o la terza, ecco, per cui con tutto il gruppo, sì, corre, fa la 24 ore, ha vinto col diesel, ha vinto col ibrido, insomma, sono avanti un po' di tutto, poi c'è della Porsche, insomma, credo che anche da quel punto di vista lì sia una garanzia. E poi Dall'Igna è molto bravo, l'abbiamo visto in aprile, addirittura ai tempi subito con Witteven, con le due tempi, subito dopo Witteven, ancora con le due tempi, e poi con la MotoGP, sono con la Superbike, sì, quindi secondo me lui è una bella garanzia. La Ducati è la Ducati, quindi ce l'ha nel sangue, insomma, di sì, corse. No, ma io credo infatti che ci sia molto di Dall'Igna in questo progresso della Ducati. Poi dovessi puntare un euro su Dovizioso, costante, duro, cattivo, cagnaccio, o su quel pazzo di Iannone? Io probabilmente, se non cambia nessuno dei due, continuano a rimanere quelli che hai detto tu, credo che alla fine forse si troverà più davanti Vizioso, sì, però magari la soddisfazione di una gara pazzesca che vince all'ultima curva, all'ultimo giro, di Iannone ci sta, ecco, che ce la possa regalare magari. Un'ultima cosa, Paolo, invece sì, in Moto3 riusciamo a vedere vincere un italiano o sempre il solito maledetto in spagnolo? Per me quest'anno c'è la possibilità che ci sia un francese, anche se è all'esordio, Quartararo, sembra che sia veramente un fenomeno. Comunque ha stravinto il CEV, che è il campionato spagnolo, che è diventato mondiale juniores da quest'anno, insomma, quello era il campionato per giovani più competitivo del mondo, e sembra che sia veramente un piccolo Marquez, però anche Marquez non ha vinto il primo anno in 125. Credo che questo Kent, che è qualcuno di quelli che insomma si sono messi in mostra negli ultimi due anni, così potrebbero fare bene. Dei nostri ci sono, quelli del team VR46, soprattutto Fenati, ma ce ne sono tanti di ragazzi bravi. Antonelli forse avrà finalmente l'esperienza sufficiente per non fare insomma un po' di errori come faceva, la velocità ce l'ha. Se poi magari anche un po' ingrassato, un po' cresciuto come peso, avrà anche meno come si dice, massa da mettere sulla moto, sì, per raggiungere il peso minimo, per cui insomma secondo me c'è anche la possibilità. La vedo più dura in Moto2. Moto2 sì, Moto2 non è terra per noi, credo. Abbiamo solo corsi, ecco, diciamo. Sì. Grazie Paolone. Grazie Paolone, ma grazie a te. Un abbraccione. Ciao. A presto, con un microfono in mano a correre dietro ai piloti. Ti vogliamo tutti noi. Paolo Beltramo. Visto il casino per Ron Artest, Giovanni Capuano? Per? Ron Artest o l'amico dei Panda. O Meta War Peace. E noi lo aspettiamo. Ci ha riportati agli sbarchi dei marziani dell'NBA di qualche anno fa. Sì, un po' passati, perché mi risulta che Ron Artest in realtà non frequentasse il parquet dell'NBA da un pochino, sia passato da un'esperienza in Estremo Oriente prima di arrivare a Cantù. Però noi siamo aperti a tutto, quindi siamo molto curiosi curiosi, così come siamo molto curiosi di capire che fine fa Milano in Eurolega, perché ieri sera io sono rimasto lì attaccato sperando anch'io. Poi sugli ultimi due canestri è girata la partita, la possibilità di ribaltare e di riportare alla mente vecchie grandi imprese dell'Olimpia Milano, però... Però è ancora in ballo. È ancora in corsa ed è un miracolo considerato che ne aveva perse 6 delle prime 7, sì, se non sbaglio. Sì, no? Disastroso. Giorni. Massimo Riani, Gazzetta dello Sport. Ciao Massimo. Ciao, buongiorno a tutti. Dovevo partire da Milano e dagli ultimi maledetti secondi o dallo sbarco del Marziano, un po' stagionato, ma comunque grande personaggio, di cui hai scritto oggi? Il discorso di Milano è abbastanza semplice e allo stesso tempo complicato, nel senso che adesso la situazione è ancora peggiore di quanto non potesse essere nelle ultime settimane. Mi fa un po' ridere che si continui a parlare di Milano ancora in corsa per i playoff, una squadra con un bilancio simile in Eurolega, testimonianza di un girone davvero mediocre, perché tolte le prime tre le altre si equivalgono verso il basso. Però sarà il girone dei rimpianti, diciamo la verità. Sì, cioè, mai come fuori. Quest'anno poteva arrivare in carrozza a giocarsi poi la coppa in fondo. Ma sarebbe bastato molto semplicemente vincere la prima in casa col Nizza e non prenderne 20, non arrivare forse con un po' troppa leggerezza quell'incontro, con gente che ha pensato qualcuno magari più alle feste dell'ultimo dell'anno che è una partita che avrebbe poi segnato il proseguo della stagione europea. Sì, sai, la classica domanda del bar è: ma cosa manca a Milano per fare strada? La sensazione è che io non sono un grande tifoso di Langford, però quantomeno era una gerarchia precisa, era un capo giocatore, almeno dal punto di vista tecnico. Quest'anno Milano, dura dirlo oggi dopo che Gentile ne ha fatti 29 suo massimo in Eurolega giocando una partita di questo tipo, eccetera eccetera, però il vecchio discorso del leader offensivo forse torna di attualità. Sì, indubbiamente non si è mai trovata l'armonia necessaria tra i vari Hackett, Gentile, Brooks, perché tutti potessero rendere al massimo e non uno un giorno sì, l'altro un giorno no e viceversa. Si è puntato su Brooks, un giocatore che sicuramente di talento ne ha tanto, ma che con l'Europa c'entra veramente. Io ho la stessa idea, secondo me il problema è proprio questo. Sì. Giocatore che non ti fa male, magari ti segna 25, ma non ti fa male, non può essere il go to guy quando le partite sono importanti. E io ti devo dire che lui ha giocato anche a Boston, io ho parecchi amici nei Celtics, e quando gli ho detto che Milano aveva preso Brooks mi hanno guardato con gli occhi un po' sbarrati, come dire: ma come, è proprio l'antitesi del giocatore di una squadra europea. Ah, sì. E invece l'amico dei Panda, come l'hai trovato? L'amico dei Panda l'ho trovato molto, molto bene. Davvero? Asciutto, fisicamente pronto, le visite mediche non hanno trovato nulla se non quel problema al ginocchio che lui ha avuto in carriera, ma che non ha niente a che vedere con quello che è successo in Cina. Un giocatore di una grandissima intelligenza, mi ha sorpreso la sua straordinaria disponibilità con tutti ieri. Un episodio che... può raccontarvi che tipo e con che approccio è arrivato qui al test. Secondo giro richiesto da lui al Pianella, ricordiamo Los Angeles, New York, bagagli smarriti, Milano, visite mediche, conferenza stampa in via Ripamonti, un'ora e mezza di macchina per arrivare al Pianella nel traffico della tangenziale, per cui non freschissimo. Si ripresenta nel tunnel degli spogliatoi dopo tutto questo una troupe televisiva chiedendo: scusate, ci ha funzionato male la telecamera, ci puoi dare ancora un secondo? Anche di più è stata la risposta. È l'approccio americano, esatto, noi prima parlavamo dei silenzi stampa dei nostri calciatori, dei americano. Club per le critiche in America, Massimo Riani lo può raccontare meglio di tutti noi. Finisce la partita, chi deve lavorare va dentro gli spogliatoi, i giocatori stanno lì fino a quando tu hai da parlargli e poi se ne vanno via, no Massimo? Assolutamente, ho letto a questo riguardo un articolo interessantissimo su Grantland, che è il sito di Bill Simmons, in questo momento secondo me il giornalista sportivo americano numero uno, in cui si parlava del rapporto tra i giocatori e i giornalisti, che anche negli Stati Uniti, pur con questo libero accesso, è cambiato radicalmente in questi ultimi anni. I beat writers una volta viaggiavano, mi raccontava Steve Woolpert del Boston Era, loro viaggiavano in charter con la squadra, chicche su le numeri di lattine di birra bevute da Kevin McHale su un ritorno da Los Angeles, rapporti completamente diversi che ora comunque non ci sono più. C'è accesso molto di più rispetto all'Europa, c'è una disponibilità loro diversa, ma siccome a questo punto è più imposta che altro, sì, è cambiata anche là comunque. Grazie Max. Grazie, grazie a voi, grazie buon Massimo Oriani. Domani Capuano abbiamo chiuso, torniamo domenica. Torniamo domenica dalle 17, abbiamo tutto schermi, il dopo nazionale. E poi se qualcuno ha altri episodi vintage da parlare? Proporci, no, noi siamo qui. Torniamo, facciamo risentire Fiorentina. C'è il gol di mano di Piola, se non ricordo male, in una finale di un campionato. Se hai coraggio, rimandiamo gli audio originali del rigore della Juventus a Catanzaro e del gol annullato alla Fiorentina a Cagliari. Noi abbiamo il coraggio di fare tutto, amici. Domenica alle 5. Faremo di tutto, eh. Grazie Giovanni Capuano, Giorgio De Luca il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione. Ciao. Grazie amici, enjoy e football enjoy. Okay, but what bye, you, darling. But what is your style? I love you, darling. Me? I love you al people. Al people del football. Tutti convocati.